Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sei minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, con voi come sempre Sebastiano Barisoni, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Già i nostri GR vi hanno ricordato le nuove previsioni del Centro Studi Confindustria, fuori dal tunnel ma ancora difficoltà sulla ripresa. Le stime, devo dire, ne parleremo fra brevissimo, sono comunque migliorate per il 2010, è una tendenza che vediamo, che stiamo vedendo negli ultimi giorni da parte di molti organismi internazionali, di economisti, con buona pace del ministro Monti e quindi anche della sua idea, degli economisti un po' come maghi, Fondo Monetario, Banca Mondiale, OCSE, non in quest'ordine, oggi anche il Centro Studi Confindustria hanno rivisto in miglioramento le previsioni sul calo del PIL quest'anno. Devo dire che poi quando da un meno 5,2 vai a un meno 4,8 c'è poco da gioire. Più interessante invece il 2010, perché oggi il Centro Studi di Confindustria dice che la crescita dovrebbe essere dello 0,8% e sarebbe già qualcosa, cioè non uno 0,1-0,2 ma vicino al punto percentuale, vorrebbe dire certificare a tutti gli effetti che la recessione è finita e che c'è una ripresa che soprattutto va a irrobustirsi nella seconda metà del 2010. E di questo parleremo in apertura. Poi, come sempre, i mercati che oggi sono tendenzialmente tutti positivi. Milano guadagna un punto percentuale come Parigi, l'1,3 lo guadagna invece Francoforte, lo 0,90 è il rialzo di Londra. Euro su dollaro in netto rafforzamento, e qui assistiamo anche a movimenti importanti, già ne abbiamo parlato ieri, sul fronte non solo valutario ma anche delle materie prime, l'oro a $1,000 l'oncia come conseguenza di un dollaro debole, il petrolio che torna ad rialzare la testa. Chiariamoci subito, visto che molti di voi ce lo chiedono al 349-238-6666, per quello che riguarda le materie prime è immaginabile che qualora la ripresa del 2010 dovesse essere a questo punto attesa in maniera strutturale, torneranno a crescere con ogni probabilità anche i prezzi delle materie prime e comunque gli investimenti nelle materie prime. Ancora parleremo di obbligazioni societarie, perché c'è stata un'emissione di Eni che ha avuto un successo incredibile e rendeva pochissimo più dei bot. C'è stata ieri un'emissione della Fiat, anch'essa con un tasso di interesse, quindi con un rendimento per chi compra queste obbligazioni, più basso rispetto a due mesi fa, di 1,5%. Oggi Generali ed Enel emettono altre obbligazioni, quindi chiedono prestiti, soldi sul mercato, emettendo in cambio obbligazioni e interessi, anche qui richiesta altissima e, da quello che si capisce, alcune banche potrebbero iniziare a pensare proprio a emettere obbligazioni invece che ricorrere, questa sembrerebbe l'ipotesi, ai Tremonti Bond, ossia a quei prestiti, diciamo, dello Stato, del governo, che avevano però, come giustamente ha ricordato il ministro Tremonti, la funzione non tanto di migliorare il capitale delle banche quanto di permettere alle banche di girare questi soldi alle piccole e medie imprese, quindi non generare il cosiddetto credit crunch, ossia stretta sul credito, che anche oggi Emma Marcegaglia è tornata a ricordare. Ultimo tema che tratteremo nella seconda ora, un giro di interviste con vari imprenditori che hanno accettato la sfida, ma che hanno, pur avendo essendo grossi nomi e godendo anche di grossi fatturati, hanno difficoltà simili a quelle dei piccoli imprenditori. Vorremmo capire, quando si è tutti nella stessa barca, che lezioni si possono ottenere e che suggerimenti possono essere dati a tutti, non solo verso i piccoli e piccolissimi. 349-238-6666 per gli sms, dicevamo, la notizia in breve. Il petrolio a $71,60 al barile in apertura nel giorno in cui è programmato a Vienna il vertice dell'OPEC, dei paesi appunto, dei principali paesi produttori di petrolio. Le attese sono tutte per un mantenimento delle quote attuali di produzione. Però oggi, per ragioni operative, la Shell, gruppo anglo-olandese, ha annunciato di aver interrotto la produzione nel campo petrolifero a sud della Nigeria, un campo che fornisce 115.000 barili al giorno. In altri tempi, un anno fa, un anno e mezzo fa, una notizia del genere avrebbe scatenato la speculazione sul petrolio, per fortuna adesso no. Resta invece sopra i $1,000 l'oncia l'oro, $1,007 per la precisione. Nel frattempo, venendo alle varie analisi, diciamo che non se ne può più di sentire sempre le stesse cose. In alcuni casi Jean-Claude Trichet è tornato a memoria per la quarta volta in una settimana a dire che la crisi finanziaria non è ancora finita, ma bisogna iniziare a studiare come riassorbire le misure di aiuto alle varie economie in modo che la exit strategy, ossia la strategia di uscita dalla crisi, sia convincente. Così anche oggi il presidente della Banca Centrale Europea. Forse più nuova la dichiarazione e le affermazioni dell'ex numero uno della Federal Reserve, Alan Greenspan, osannato prima, nella cenere dopo, perché a lui si vengono imputati anche molti degli errori che hanno portato a questa crisi finanziaria. Ebbene, secondo Alan Greenspan, ci sarà bisogno di una crescita economica significativa, quindi robusta, prima che la disoccupazione inizi a scendere in America, e tant'è che difficilmente vi sarà una ripresa dell'occupazione e quindi un calo della disoccupazione nel 2010. Per fortuna, nota Greenspan, la perdita di posti di lavoro sta rallentando sia in America che nel resto del mondo. Invece festeggia la fine della recessione la Francia, perché la Francia con la Germania, a sorpresa, lo ricorderete, ha avuto un segno più 0,3% sia la Germania che la Francia nel secondo trimestre, e oggi il presidente della Banca Centrale Francese, Christian Noyer, ha detto che la recessione è finita, ma deve adesso migliorare il mercato del lavoro. Ancora in difficoltà invece la Spagna, dove il Premier Zapatero ha confermato oggi al Parlamento l'intenzione del governo di Madrid di procedere ad un aumento delle imposte, quindi aumentano le tasse in Spagna per combattere la crisi. Praticamente un aumento che varrà 1,5% di PIL. Zapatero ha ribadito che ci sono indizi che la parte peggiore della crisi è passata, però il paese, la Spagna, resta in una crisi intensa. In Spagna, tra l'altro, è tornata a esplodere la disoccupazione, che era, la Spagna storicamente ha sempre avuto una disoccupazione molto più alta del resto d'Europa, ma insomma era riuscita a portarla sotto il 10%, quindi non più a due cifre. È bastata questa crisi per portare i disoccupati spagnoli al doppio della media europea, il 18%. In Italia si viaggia tra l'8% e il 9%, insomma in Spagna siamo al 18%, oltre 4 milioni di disoccupati. Ancora discussioni sui bonus ai manager, la nostra linea la conoscete, non possiamo fare, diciamo, ogni volta una puntata sulla necessità di avere bonus più legati ai rendimenti e anche più realistici, insomma, rispetto a quelle che sono le paghe medie. Comunque, comprensibile e appropriata a dire che la controversia, che le discussioni, che le critiche ai bonus dei manager della finanza sono giuste, è lo stesso amministratore delegato di Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, che in un dibattito sui bonus dei banchieri, in una conferenza organizzata da Handelsblatt, ha detto: è vero, i bonus vanno corretti. E tra l'altro lui ha rinunciato al bonus del 2008, devo dire per correttezza che vi ha rinunciato dopo che nel 2007 se n'è intascato uno da $68 milioni, voglio dire, milioni di dollari, ero capace anch'io a rinunciare a quello del 2008, però insomma, apprezziamo che nel 2008 abbia rinunciato. Sentiamo Blankfein. I compensi continuano a creare risentimento e rabbia, e sotto molti punti di vista questo è comprensibile e opportuno. Non è giustificato il fatto che vengano pagati compensi fuori misura in modo discrezionale quando un'istituzione finanziaria perde soldi. Ecco perché crediamo che si debbano applicare degli standard ai compensi di chi lavora nell'industria finanziaria, che dovrebbero stimolare il lavoro di squadra e non gli atteggiamenti egoistici, incluso il fatto di prendere rischi eccessivi. Un comportamento questo che nel lungo termine va a svantaggio sia della società che degli azionisti. Penso che i bonus pluriennali debbano essere banditi e lo staff degli istituti di credito debba ricevere una maggiore quota di azioni nell'ambito dei propri compensi. Sfortunatamente l'uso dei bonus pluriennali è una pratica comune nel nostro ambiente. Tutti dovremmo riconoscere che sono negativi, non fanno l'interesse della nostra industria e del sistema finanziario. We should all recognize that they are bad for the long-term interests of our industry and for the financial system. E sempre sul tema dei bonus, però, mentre se ne discute, c'è una posizione unica a livello europeo per il prossimo G20, Germania, Francia, Gran Bretagna e anche Italia sono d'accordo, in Olanda si è passati le vie di fatto, dalle parole ai fatti nel pragmatico paese Olanda, perché praticamente dal 1 gennaio i bonus dati ai manager bancari non potranno essere superiori ad un anno di salario. Non ci voleva tanto, però evidentemente sì, perché l'Olanda è il primo paese e questo quanto previsto dal codice etico presentato dall'Associazione Bancaria dei Paesi Bassi. Adesso passiamo alla Confindustria, quanto emerso oggi dalle previsioni del Centro Studi. Una piccola chiosa su un tema che a molti di voi sta a cuore, la vicenda del ristorante Il Passetto. Ieri ci siamo tornati perché il vice sindaco di Roma a Tokyo è andato a incontrare i due turisti che si sono beccati quasi 700 euro di conto con una figura inenarrabile a livello mondiale, soprattutto sulla stampa asiatica, per il nostro turismo. Oggi la città di Matera ha proposto, e lo citiamo con piacere, ai turisti giapponesi che si prenoteranno entro il 25 settembre pernottamento gratis dall'1 al 10 novembre a Matera nel Residence San Giorgio, e lo ha annunciato l'assessore al turismo spiegando che l'iniziativa vuole promuovere l'accoglienza dei turisti asiatici dopo il danno causato alle vittime di speculazione, e riferimento al racconto del ristorante Il Passetto. Complimenti ancora, so che è chiuso il ristorante, per me potrebbe anche restare chiuso adesso, però Centro Studi Confindustria, le previsioni economiche e i temi sulla cosiddetta exit strategy, nome bruttissimo, su come uscire da questa crisi. Risottolineiamo che forse siamo fuori dal tunnel della recessione, ma la crisi non è finita e avremo davanti un periodo ancora lungo per poter tornare ai livelli di produzione che abbiamo avuto prima della crisi. Quindi ci sarà ancora un impatto sull'occupazione da gestire con grande senso di responsabilità, e ci sarà la necessità da parte delle imprese di cambiare le proprie strategie, cercare di conquistare nuovi mercati, e dall'altra parte ci sarà la necessità da parte del governo di portare avanti le grandi riforme di cui si parla da tempo, pensioni, liberalizzazioni, federalismo fiscale, scuola e Stato, che sono le uniche che possono aumentare la potenzialità di crescita del nostro Paese. Sicuramente ad oggi i dati dicono che l'Italia è tra i Paesi che ha perso meno posti di lavoro, probabilmente nei prossimi mesi ne perderemo alcuno perché ci saranno riconversioni, ristrutturazioni, chiusure. Allora, da una parte è molto importante mantenere finanziamento degli ammortizzatori sociali, dall'altra è quello di fare formazione a chi rischia di perdere il posto di lavoro per trovarne degli altri, e il terzo tema veramente di avere un grande senso di responsabilità per tutti, perché avremo ancora dei mesi difficili. Così Emma Marcegaglia al termine del convegno del Centro Studi Confindustria, al microfono della nostra Alessandra Schepisi, il direttore del Centro Studi Confindustria, Luca Paolazzi, buonasera. Buonasera a tutti. Mago Paolazzi, noi ormai chiamiamo tutti gli economisti che invitiamo maghi o diciamo così. Cartomante le piace di più, ho difficoltà ad atti di lei, visto che è stato un collega per molti anni a Sole 24 Ore. Al di là della bacchetta magica della zucca in cui mi trasformerai, Veniamo alle prospettive per il 2010. Anche voi, come devo dire negli ultimi giorni OCSE e Fondo Monetario, avete rivisto a rialzo le stime sul 2010 e per fortuna avete migliorato quelle sul 2009. Devo dire che, se ho ben visto, la vostra stima sul 2010 è quella più positiva per il nostro PIL, più 0,8%. Diciamo che siamo superati solo da Mary Lynch, che fa più 1,5%. Gli altri, diciamo, si attestano sotto lo 0,5 normalmente, intorno allo 0,2 mediamente. Noi in realtà abbiamo rivisto poco le previsioni, sia per quest'anno che per l'anno prossimo, perché i dati che sono usciti nel corso dell'estate hanno fondamentalmente confermato lo scenario disegnato a giugno, e questo ci ha confortato. Quindi non abbiamo pensato di dover rivedere più di tanto le nostre previsioni, cosa che invece hanno fatto molti istituti, ritoccandole di mezzo punto o anche di più. Emma Marcegaglia, nel passaggio che abbiamo appena ascoltato, ricordava come, beh, adesso ci devono essere anche delle iniziative, devono continuare le iniziative anche di carattere governativo, però che l'Italia non ha avuto un danno occupazionale così forte come altri paesi. Però voi oggi nel rapporto fate notare che comunque si sono persi negli ultimi due anni 700.000 posti di lavoro, anzi tra il quarto trimestre 2008 e il quarto trimestre 2010, per essere precisi, 700.000 saranno i posti di lavoro persi. Sì, quello che è successo fondamentalmente è che le imprese hanno cercato di resistere di fronte alla crisi con l'idea di un rimbalzo più rapido, deciso, un ritorno alla normalità dell'attività, degli ordini, della domanda in tempi rapidi, in tempi brevi. Questo significava, o avrebbe voluto significare, difendendo l'occupazione e il capitale umano, che è la risorsa più preziosa che un'impresa ha, essere pronti a questa ripresa, a questo rilancio. In realtà purtroppo questo non si è verificato. Con il passare del tempo è diventato sempre più chiaro che le perdite di attività erano enormi, e queste perdite si sono tradotte in perdite di bilancio, e questa situazione non può reggere nel corso del tempo. C'è stato un aumento del costo del lavoro per unità prodotto molto significativo, che ha eroso ulteriormente i margini. Le imprese dovranno cercare di recuperare produttività, dovranno ridimensionare il loro business al livello più basso di domanda, dovranno riaggregarsi, riorganizzarsi, ristrutturarsi, riconvertirsi. Questo significa ovviamente un cambiamento dell'occupazione. Questi 700.000 posti, in fondo, se li confrontiamo con le recessioni passate, sono anche un numero relativamente contenuto. Prendiamo un'altra misura che non sono i posti, cioè le teste, il numero di persone che perdono l'occupazione. Pigliamo la misura invece definita dalle unità di lavoro, vediamo che quest'anno dal momento più alto della precedente espansione al momento più basso della perdita di occupazione perderemo circa 1.240.000 unità di lavoro. Nella recessione del 93 ne abbiamo perso 1.260.000. Nonostante questa volta il calo del PIL sia di circa il 6%, mentre allora fu molto molto più basso, adesso vi dico è un punto importantissimo questo, Paolazzi, perché tu ci stai dicendo la caduta del PIL quest'anno, l'abbiamo visto, è decisamente più forte di tantissimi altri dati negativi che abbiamo visto in questi anni, e anche del 93, e arriveremo a un meno 5, che sia meno 4,8, meno 5,1, diciamo i prefissi telefonici li lasciamo ad altre trasmissioni. Però la disoccupazione che si viene a creare sarà addirittura più bassa, per carità, è sempre drammatico, stiamo parlando di 700.000 o di 1.200.000 posti di lavoro, ma è più bassa di quanto avvenuto con recessioni più morbide. Se ho ben capito la tua spiegazione, è perché le imprese hanno cercato in tutti i modi di tenere gli occupati, si è fatto ricorso anche a vari strumenti, patti di solidarietà, pur di non arrivare al licenziamento, ho capito bene? Esattamente, e diciamo, anche se adesso arriverà il licenziamento, l'idea è, le imprese in ogni caso sono entrate in questa crisi con gli organici, tra virgolette, asciutti, cioè tutte le persone che servono e solo quelle che servono, e quindi anche qui cercheranno di limitare l'espulsione di manodopera. perché altrimenti l'alternativa è chiudere fondamentalmente. Certo. Se ti mancano le persone per fare un certo tipo di attività, fondamentalmente significa che poi non la svolgi più. Ancora, per quel poco che capisco, non essendo un economista, quindi non occupandomi di magia, il tema grosso in questo momento, Luca Paolazzi, è il debito e il deficit che hanno imbarcato i vari stati. Cioè, adesso tutti quanti, da Trichet al Fondo Monetario, usano questa paroletta magica, exit strategy, per cui bisogna pensare alla strategia di uscita, che da come la capisco io è bisogna pensare a come rientrare con deficit e debiti più accettabili, visto che questa crisi per ora è costata complessivamente 10.000 miliardi di dollari, stima Commerzbank, la maggior parte dei quali se li sono caricati sul groppone gli stati, cioè noi tutti, cioè Pantalone. Allora, secondo te, più che parlare di tassi di interesse o di altre amenità, il vero tema del 2010 sarà quando i governi, a partire da quello americano, ma non solo, anche quello europeo, inizieranno a dover rientrare sul deficit, sul debito? E se sì, questo cosa vuol dire? Beh, sicuramente è vero che una delle eredità pesanti, gravi di questa crisi è il deterioramento dei conti pubblici in giro per il mondo, non solo in Italia, sia in termini di deficit, sia in termini soprattutto di debiti pubblici. In termini di deficit, perché se non torniamo o non recuperiamo il trend di crescita precedente e i livelli di trend precedenti, rimane un buco nelle entrate e una come dire, spesa aggiuntiva in termini di ammortizzatori sociali che non viene recuperata, appunto, e quindi strutturalmente i deficit salgono. Sui debiti, perché oltre, diciamo, all'aumento che i debiti hanno a causa dei maggiori deficit, c'è stato un calo del PIL, e di nuovo torniamo al discorso di prima. Le previsioni che sono state fatte, non tanto da noi, quando dal Fondo Monetario Internazionale, appunto, di un aumento piuttosto consistente dei debiti pubblici in giro per il mondo. Quindi sicuramente questo sarà il tema, diciamo, delle exit strategy, cioè delle vie d'uscita del ritiro delle misure espansive. Però vorrei fare un distinguo rispetto a quello che hai detto prima. Non è vero, diciamo, che le misure che sono costate di più fino adesso sono quelle di sostegno alla finanza. Le misure che sono costate di più in termini di conti pubblici sono proprio quelle legate alla crisi economica dovuta al calo delle entrate e alle misure espansive discrezionali o automatiche che sono entrate in funzione per sostenere il reddito, l'occupazione e il benessere dei cittadini. Le misure di sostegno ai mercati finanziari o sono state virtuali, come la garanzia sui depositi bancari, o, diciamo così, il fatto di dire nessuna banca fallirà, o sono state molto contenute, per esempio quelle finora, diciamo, varate in Italia con i Tremonti Bond, oppure sono anche state massicce, come negli Stati Uniti o in piccole nazioni, pensiamo la Svizzera. Ma se guardiamo poi a quello che è successo, la Svizzera ha fatto un enorme affare sostenere UBS, ha incassato 7,2 miliardi di franchi svizzeri, avendone tirati fuori 6. Gli Stati Uniti anche stanno rientrando rapidamente da questi aiuti, molte banche di investimento americane hanno restituito i soldi con interessi, quindi è un po' presto per dire che sono stati dati, diciamo, sostegni. No, hai assolutamente ragione, nel senso che il costo poi vero è stato quello per le politiche, chiamiamole così, di mantenimento, quindi dalla cassa integrazione, non in caso italiano solo, ma all'estero, le politiche di welfare generali, al sostegno alla domanda e quant'altro. La parte di salvataggio bancario, ad eccezione fatta per alcuni casi, è vero che gli stati, essendo entrati nel capitale, vedi anche la Gran Bretagna e in alcuni casi anche l'America, se poi i titoli di queste banche tornano a salire ci guadagnano anche gli stati, e quindi non sono soldi, tra virgolette, persi. Un'ultima domanda, cioè non posso non farti passare per le forche caudine a cui stiamo sottoponendo tutti gli economisti nelle ultime settimane. Lo spunto ce l'ha dato, poi vedo che gli ascoltatori già lo vogliono di nuovo, ce l'ha dato il ministro Tremonti, che è tornato poi in bocconi a chiarire il suo pensiero, ma noi vogliamo l'originale, quindi meeting di Rimini. Riunioni che realmente ricordano quelle dei maghi. Tutta la nostra antropologia è fatta da maghi, Apollonio, Merlino, Fausta stesso, pure molto rispettabile, Prospero, il mago di Oz. Harry Potter, naturalmente c'è anche Mandrake, il Mago Witz, Satanic, devo dire anche il Mago Thelma. Le riunioni degli economisti sono esattamente queste. Allora, il Mago Apollonio farà apparire l'inflazione, ma ne impedirà la trasformazione in deflazione. Grandi applausi e riconoscimenti a questo prodigio magico. Quello che colpisce è che nessuno di questi ha mai chiesto scusa. Nessuno di questi ha mai detto ho sbagliato. Hanno sempre sbagliato gli altri. Salagadula, mencicabula, bibidi bobidi bu. Mettele insieme che accade laggiù, bibidi bobidi bu. E allora, visto che zucca non sono ancora diventato, casomai zuccone, Luca Paolazzi sono, ma non zucca, vorrei sapere il tuo punto di vista, perché è vero che c'è chi scrive, Dario Di Vico oggi sul Corriere della Sera, Tremonti adotta questa tecnica di attaccare le banche e gli economisti perché sa che godono di cattiva stampa presso l'opinione pubblica, che la gente ce l'ha con le banche, ce l'ha anche con gli economisti, vengono considerati troppo distanti da tutti noi e quindi è un'operazione politica in modo da non parlare del debito, del deficit e di altre cose. Però secondo me un po' di autocritica, al di là dei motivi per cui la fa e per cui la lancia Tremonti, c'è. Il tuo punto di vista? Ma il mio punto di vista, ripeto le parole usate oggi dal direttore generale di Confindustria, Giampaolo Galli, che prima ancora che essere direttore generale di Confindustria è un ottimo economista. Insomma, se diciamo sono andato dal cardiologo 3 giorni fa e poi mi viene un infarto, io sicuramente me la prendo col cardiologo che mi ha detto che andava tutto bene, però poi non vado dall'avvocato a farmi fare il prossimo elettrocardiogramma, torno da un altro cardiologo forse. Magari più bravo. Però di nuovo, se diciamo uno vuole cercare di capire come va l'economia, andrà diciamo l'economista. E poi non è vero che nessuno ha chiesto scusa, su questo basta guardare diciamo i tanti saggi, studi che sono usciti in cui si parla delle lezioni della crisi, le cose sono state sottovalutate. Ce n'è uno molto molto interessante, non dico il nome dell'economista perché a Cemoglu la maggior parte degli ascoltatori non lo conosco, che dicono quello che gli economisti possono imparare dalla crisi, quindi è una missione diciamo di non in un certo qual modo adeguatezza degli strumenti di analisi utilizzati in passato. Roberto Perotti in Italia ha scritto sul Sole 24 Ore un bel pezzo su questa cosa, quindi francamente trovo diciamo che la categoria nel suo insieme magari ha sbagliato. Concordo con il ministro Tremonti e con tanti altri che dicono che troppo spesso le analisi economiche sono astratte, slegate, lontano dalla realtà. Peraltro non è un'opinione che ho da oggi, l'ho anche scritto tante volte sul Sole 24 Ore. Penso diciamo che però la crisi nasca come crisi dell'intera società, nel senso che è l'intera società nel suo insieme che non ha saputo guardare correttamente la realtà. Ha ragione Guido Tabellini, economista, rettore della Bocconi, quando dice: e se anche gli economisti avessero alzato il dito, e guardate che ce ne sono stati, i rapporti della Banca dei Regolamenti Internazionali fatti da economisti hanno lanciato molte allarmi. Lo stesso Fondo Monetario Internazionale l'ha fatto, i banchieri centrali, molti dei quali sono economisti, l'hanno fatto. Pensate diciamo, che la società, presa dall'euforia del boom, ci avrebbe dato retta? No, avrebbero semplicemente detto: questi sono dei gufi, sono dei corvi, è gente che guasta feste, zittiamoli. E sai perché non vi avrebbero dato retta? Sentiamo. L'avidità, non trovo una parola migliore, è valida, l'avidità è giusta. L'avidità funziona, l'avidità chiarifica, penetra e cattura l'essenza dello spirito evolutivo, l'avidità in tutte le sue forme, l'avidità di vita, di amore, di sapere, di denaro, ha improntato lo slancio in avanti di tutta l'umanità e l'avidità, ascoltatemi bene, non salverà solamente la Tel del Carta, ma anche l'altra disfunzionante società che ha nome America. Ecco perché, a nostro avviso, Luca Paolazzi, i grandi manager delle banche non avrebbero comunque ascoltato i consigli degli economisti, e hai ragione a dire che non mi celebri, ma anche non celebri Mario De Aglio da noi, ma soprattutto Krugman in America, Rubini, Stiglitz, cito così a casaccio, avevano messo in guardia. Ha ragione anche chi scrive al 349-238-6666, è vero che gli economisti non hanno fatto abbastanza autocritica, ma i politici l'autocritica non la fanno mai. Che ci volete fare? Però loro hanno il voto elettorale, il responso elettorale. Luca Paolazzi, grazie, grazie anche per esserti sottoposto, diciamo, a questo tormentone che continuiamo da circa 2 settimane. Grazie al direttore del Centro Sud di Confindustria. Grazie, buona serata a voi. 17:42 minuti, nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Torneremo dopo, come promesso, anche su altri interventi oggi a commento dei dati presentati dal Centro Studi Confindustria, sempre la Presidente Confindustria Emma Marcegaglia, sul rischio di stretta del credito delle banche verso le imprese, ma non solo, il Ministro Sacconi sulle previsioni e anche sui dati sull'occupazione, e anche il ritorno, visto che era uno dei relatori, di Romano Prodi, che è intervenuto alla presentazione delle previsioni economiche del Centro Studi di Confindustria. Adesso però è il momento della borsa. Vedo molti messaggi sul tema previsioni, debito. Ragazzi, noi cerchiamo di fare il possibile. Ha ragione chi scrive: non esistono solo le imprese, ci sono gli allevatori che con il latte a 28 centesimi rischiano di chiudere molte aziende. Cerchiamo di occuparci quando riusciamo anche di agricoltura. Ammetto l'incapacità di toccare tutti i temi, adesso però la borsa. Più 1,1 il FTSE MIB, più 1,3 Parigi, più 1,7 Francoforte, più 1% Londra, l'America più 0,80 con un euro che si avvicina a quota 1,46. Debole debole il dollaro in questo periodo e in rialzo anche il petrolio. Livia Zancaner, Radio Corio, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora Livia, i temi di questa puntata, magari i temi di questa giornata di borsa, sono secondo me Buzzi Unicem, di nuovo grosso movimento sui titoli legati alle costruzioni, tutta la settimana che vengono bene acquistati, più 4,3%, ma soprattutto Pirelli, miglior titolo, più 5,7%, segue Banco Popolare, più 5,3%, e poi appunto Buzzi Unicem, le Pirelli. Allora, le quotazioni Pirelli hanno beneficiato da una parte la buona intonazione del comparto auto, che con un rialzo di oltre il 2% ha trainato a rialzo tutti i listini del vecchio continente. In particolare il comparto auto ha beneficiato le dichiarazioni dell'amministratore delegato di Renault, secondo il quale la crisi finanziaria è chiaramente alle spalle, e inoltre il settore auto ha beneficiato di una serie di report positivi da parte delle banche d'affari. Per quanto riguarda Pirelli, poi c'è una motivazione in più, nel senso che in un report di Centrobanca gli analisti scrivono che il presidente di Pirelli, Marco Tronchetti Provera, ha sottolineato che c'è spazio per distribuire un dividendo, e nello studio, che è datato 8 settembre ed è stato redatto dopo un incontro con i vertici del gruppo, gli analisti hanno confermato la raccomandazione comprare sul titolo e hanno rivisto al rialzo il prezzo obiettivo a 0,37 dai precedenti 0,32. Beh, è il profumo del dividendo che eccita la borsa. Banco Popolare più 5,4%. Sì, allora le quotazioni hanno beneficiato anche in questo caso di uno studio di una banca d'affari, in questo caso è di HSBC, che ha alzato la raccomandazione sul titolo a overweight da neutral. Secondo gli analisti, la ristrutturazione di Banca Italis, che è la partecipata del Banco Popolare, il risanamento della Popolare di Lodi e il continuo miglioramento segnato dalle altre banche del gruppo dovrebbero infatti consentire una solidità nella generazione degli utili a partire dal 2011. Intanto sta proseguendo il riassetto appunto della controllata Banca Italis, in quanto ieri il CDA ha convocato l'assemblea per chiedere la delega per l'aumento di capitale fino a massimo di 1,2 miliardi. Il Banco Popolare si è reso disponibile a sottoscrivere l'inoptato. Sempre con Italis sono legati i destini recenti del Banco Popolare. Andiamo avanti, Buzzi Unicem, Credit Suisse ha alzato giudizio. Certo che quando vedo che la borsa torna a muoversi solo sui report delle banche d'affari che hanno creato il disastro che sappiamo, io continuo a preoccuparmi, però è chiaramente perché perché così sono un cinico, però ricordo che insomma queste le stesse banche che danno i giudizi non hanno saputo guardare in casa propria, mi dispiace, ma è così. Saipem più 3,4, Popolare di Milano più 2,5, Fiat più 2,4. E parleremo di Fiat di nuovo, perché qui c'è anche il successo delle obbligazioni lanciate ieri, è il prossimo tema di questa puntata. Livia, titoli che hanno perso invece, ma dopo le informazioni per chi è in viaggio, partiamo da Geox meno 1,2%, e poi più sottili invece i peggiori oggi, B-Team perde il 10%, Seat pagine gialle più 9,4%, anche di Seat vorrei parlare con te. Di nuovo in diretta, allora Livia Zancaner, oggi peggior titolo Geox da un lato, però come ricordavo mi piacerebbe anche tornare su Seat pagine gialle, che anche oggi ha preso un 9,45%. Geox e Seat. Allora, Geox ha perso l'1,26% e le azioni che hanno iniziato a scendere da qualche seduta oggi sono state penalizzate dal giudizio di Goldman Sachs. La banca d'affari ha infatti rivisto al ribasso la raccomandazione sul titolo da comprare a vendere, con un prezzo obiettivo sceso a 5,90 euro da 7 euro e ora le azioni trattano a 5,9 euro. Ma Goldman Sachs non ha abbassato il rating solo di Geox, ma anche, rimanendo più o meno nello stesso settore, di Bulgari, che infatti ha ceduto lo 0,49%, e la banca d'affari ha abbassato il rating su Bulgari da comprare a neutrale, e alla luce anche degli aggiornamenti sulle vendite pubblicate dal gruppo svizzero Richemont, che infatti ha registrato nei primi 5 mesi dell'esercizio 2009-2010 un calo delle vendite del 16% circa. La società ha detto di aspettarsi un primo semestre significativamente inferiore rispetto all'esercizio passato in termini di numeri. Per quanto riguarda Seat, allora, la società è sotto i riflettori da due sedute, in particolare sono molto consistenti i volumi scambiati, sono stati infatti scambiati 202 milioni di pezzi contro una media giornaliera dell'ultimo mese di poco inferiore a 20 milioni, quindi molto consistenti. Allora, gli operatori ritengono da una parte che le azioni siano sottovalutate rispetto a quelle delle altre concorrenti, come ad esempio Yale, ma soprattutto sta salendo l'attesa per il confronto che avverrà nell'ultima settimana di settembre tra l'amministratore delegato della società Alberto Cappellini e gli investitori. In particolare l'amministratore delegato si recherà a Londra appunto per una serie di incontri con gli analisti e gestori, da cui a questo punto il mercato si aspetta che venga fuori qualcosa. Vabbè, se no che cosa va a Londra a fare a questo punto? Livia, ti levo dall'imbarazzo, grazie, buon lavoro a te e ai colleghi di Radio Coris. Sole 24 ore. Saipem più 3,4, Popolare di Milano più 2,5 come Fiat dicevamo, Fondiaria più 2,3 come Mondadori, 2% il rialzo di Enel e di Prysmian, ma anche di Tenaris, Eni più 1,90, Ubi più 1,80 come Mediaset, l'1,6 il rialzo di Italcementi, 1,4 quello di Autogrill e di Telecom Italia, Monte dei Paschi e Generali più 1%. Fiat, dicevamo, ha beneficiato dell'emissione obbligazionale di ieri ed è una vera e propria pioggia o corsa, come titolano alcuni giornali, alle emissioni di obbligazioni, purtroppo, lo dico già a chi scrive, nella stragrande maggioranza dei casi riservate solo agli investitori istituzionali, cioè non a noi. Insomma, è iniziato il 16 giugno Telecom Italia, ha emesso 2 miliardi di obbligazioni in due tranche, in dollari, con un rendimento del 6,17%. Poi il 7 settembre c'è stata Eni, nuova maxi emissione corporate, anche in questo caso appunto il gruppo l'ha conclusa in giornata, pagava un rendimento del 4,12% annuo. Eni, devo dire che a giugno fu l'unica a fare però anche delle obbligazioni per tutti, cioè per quelle che si chiamano retail, per i privati cittadini. Ieri Fiat, tutto esaurito, richieste per 8 miliardi quando Fiat ne offriva, aveva bisogno di 1 miliardo 250 milioni. L'obbligazione vuol dire infatti chiedere soldi al mercato obbligandosi a ritornarli con un interesse. Ebbene, le domande di queste obbligazioni Fiat erano sette volte, sono state sette volte superiori all'offerta. Oggi andamento identico. Generali ha fatto tempo a offrire un'obbligazione, quindi a chiedere 1.750 milioni, scadenza 15 anni, si è conclusa in poche ore, ordini pari a tre volte l'offerta. Enel, anch'essa, 7 anni di scadenza, sta per lanciare questo prestito obbligazionario e anche Intesa San Paolo starebbe per lanciare un'obbligazione tra 1 miliardo e 1,5 miliardi, che avrebbe già ordini per 5 miliardi. E questo sarebbe un modo per non chiedere i Tremonti bond, e lì vediamo come risponderà il ministro Tremonti, e quindi trovare questi soldi direttamente sul mercato. Faccio notare però che i Tremonti bond erano nati non per aiutare le banche, ma per aiutare le piccole imprese, cioè dovevano essere girati dalle banche. Una pioggia di obbligazioni. Carlo Gentili, amministratore delegato di Nextam Partners, buonasera. Buonasera a voi. Allora, lei che gestisce patrimoni degli altri, oltre che il suo, immagino, ci aiuti a capire se anche voi notate una richiesta forte di obbligazioni anche degli istituzionali, perché questi investitori non sono, diciamo, il pensionato o il dipendente, sono gli istituzionali veri e propri. Sì, certo, anche perché buona parte, come già ricordavate nel servizio, di queste obbligazioni sono, almeno alcune, sono riservate agli istituzionali, non sono per l'investitore retail, quindi sì, la richiesta, visti quante volte sono sottoscritte, cioè come Fiat 1 miliardo diventano 7, è tutta richiesta di istituzionali ovviamente. Quindi. Però questo sembrerebbe avvalorare la tesi che c'è tantissima liquidità in giro ancora, molti soldi liquidi. Adesso c'è un'agenzia che è appena uscita, Enel, si è resa conto che è così alta la domanda delle sue obbligazioni che potrebbe anticipare il lancio già domani. Figurarsi come quanta voglia c'è di obbligazioni. Molta liquidità, le obbligazioni di titoli come Enel, Fiat, Eni, Generali sono solidissime, cioè i titoli sono gruppi che difficilmente saltano, e da lì la richiesta. Oppure c'è anche dell'altro? Cioè è solo un motivo, è solo per collocare un po' di liquidità? Beh, sicuramente c'è moltissima liquidità in giro e questo, diciamo, è anche l'effetto di quello che è, di quella che è la politica monetaria della BCE, no? Quindi Trichet ha già, diciamo, riportato i tassi, come vediamo, sostanzialmente a zero di fatto, e i tassi di mercato sono al di sotto dei tassi di riferimento. Questo per una precisa volontà politica, di politica monetaria, di, diciamo, inondare il mercato di liquidità, e ha già fatto capire che l'operazione fatta alcune settimane fa verrà ripetuta a fine settembre. Quindi basta vedere i risultati delle semestrali bancarie, le banche hanno di fatto realizzato i buoni utili che hanno realizzato sul fronte, diciamo, del trading, quindi sicuramente le banche stesse hanno, come dire, investito in questo genere di strumenti obbligazionari, perché è molto semplice, no, indebitarsi sostanzialmente a zero investendo anche a scopo di trading in questo genere di obbligazioni. I numeri, ripeto, i bilanci, i risultati, le trimestrali lo stanno a dimostrare. Terza cosa, comunque i tassi sono a zero, per cui qualsiasi investitore, che sia bancario, sia un investitore come noi, fondi comuni, SICAV o semplicemente gestioni patrimoniali o anche un cliente retail, è chiaro che quando vede diciamo extra rendimenti, cioè spread rispetto ai titoli di Stato di un punto e mezzo a seconda dei titoli, 5% nel caso della Fiat per esempio, è chiaro che è ingolosito e quindi richiede questo genere di obbligazioni. Dottor Gentili, dopo il nostro GR vorrei capire per un'altra cosa, questo è il fronte vostro, cioè di chi trova interessante comprare un'obbligazione perché rende qualcosa più dei bot e delle volte anche un po' di più. Perché però questi grandi gruppi le emettono tutte a tasso fisso? E qui il tema diventa più delicato. Non è che temono che fra un po' i tassi tornino a salire, perché sono tutte emissioni a tassi anche alti in alcuni casi, ma sempre fissi. Minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Prima di passare agli altri temi vorrei concludere il nostro approfondimento sulle obbligazioni emesse dai grandi gruppi. Ricordiamo appunto, dopo Eni e Fiat, oggi Generali, Enel che anticiperà forse già domani la sua emissione di obbligazioni. Intesa San Paolo che ci sta pensando, tutte andate a buon fine con richieste 3, 4, 5 volte superiori all'offerta. Rendimenti in alcuni casi anche alti, non sempre devo dire, ma in alcuni casi anche alti. La domanda per Claudio Gentili, amministratore legato di Next and Partners, riguardava il rendimento, e cioè il fatto che questi grandi gruppi, dottor Gentili, emettano queste obbligazioni, chiedano prestiti sul mercato a tasso fisso, anche alto, non vuol dire o non potrebbe voler dire che hanno paura che a breve i tassi tornino a salire e quindi preferiscono pagare qualcosa di più, ma almeno con un tasso fisso? O sono malizioso? No, direi che sì, c'è una punta di malizia, ma c'è anche una punta di verità, mi sembra, in questa cosa. Cioè, penso anch'io, tutto sommato, che i tassi attuali siano artificiosamente bassi e storicamente molto bassi, è una banalità a dirsi, ma insomma tassi a zero non si erano visti recentemente, non si erano mai visti anzi, quindi credo che questa sia una situazione destinata a modificarsi nel giro di qualche mese, se è vero che qualche segno leggero, modesto, ma pur sempre qualche segno di inversione di tendenza nel ciclo economico si è visto, cioè non parliamo di ripresa, ma comunque quantomeno è finita la fase di, diciamo, indebolimento dell'economia, mettiamola così. Quindi se questi segni continuano ad andare avanti e ad accumularsi, prima o poi c'è qualche segno di ripresa, ce l'avremo, a quel punto i tassi dovranno, così come la BCE è stata rapidissima e ha fatto benissimo nel farli scendere, insomma, domandiamoci se non sarà altrettanto rapida quando sarà il momento a farli risalire. Quindi è chiaro che chi può si indebita a tasso fisso oggi, e le grandi aziende questo ragionamento lo fanno ben più acutamente di me, e infatti stanno uscendo a tasso fisso con tassi oggi oggettivamente alti, interessanti. Fra 6 mesi non lo so se sarà, anche perché sono a 10-15 anni. In una battuta, perché lo chiedono molti ascoltatori, perché queste emissioni sono tutte per gli istituzionali, cioè per soggetti come voi, per fondi, per SICAV, e non per il grande pubblico, non per i retail? Tutte no, alcune lo sono, alcune perché non sono, in sostanza perché non hanno rating, alcune perché non hanno rating, non hanno rating, quindi non si possono comprare, o perché hanno un taglio grosso e quindi per i retail non possono essere, non possono essere acquistate per i retail, taglio grosso nel senso minimo 100.000 euro eccetera, quindi 50.000, quindi non possono entrare sui conti per questa ragione. Grazie e buon lavoro e buona serata a Claudio Gentili, a Carlo Gentili, amministratore legato di Next and Partners. Nel frattempo, mentre appunto apprendiamo che anche Intesa San Paolo potrebbe optare per un'obbligazione tra 1 miliardo e 1,5 miliardi di euro, che avrebbe già richieste di 5 miliardi, nel frattempo dicevo non si placa il problema tra banche e imprese. Lo dico perché alcuni di voi hanno scritto al 349-238-6666 dicendo: ma cosa vuol dire che i Tremonti bond non erano fatti per le banche? Vuol dire che nell'obiettivo del ministro Tremonti, come di altri ministri europei, queste forme di obbligazioni da sotto, che le banche avrebbero dovuto prendere, andavano poi girate, questo era l'obiettivo, ai piccoli e medi imprenditori, ossia per evitare che le banche chiudessero i rubinetti avendo poi problemi di tier, di insomma, solidità finanziaria nel prestare i soldi, l'espediente trovato è quello di fornirle dei prestiti da parte del governo, e poi che andavano girati ai piccoli e medi imprenditori. Lo dico perché oggi, nel corso del convegno del Centro Studi Confindustria, di cui abbiamo parlato in apertura ampiamente, con i dati, il PIL rivisto in miglioramento nel 2010 più 0,8 e anche nel 2009 calerà un po' meno, meno 4,8, Emma Arcegaglia è tornata sul tema del cosiddetto credit crunch, perché la Presidente del Confindustria ha detto che non c'è un rischio, c'è un rischio già presente di stretta del credito alle imprese. tema delle banche. Il vero rischio, il maggiore rischio credit crunch nasce da adesso in poi, perché i bilanci 2008, tutto sommato, per una parte significativa delle imprese italiane, stanno ancora in piedi, perché sono la somma di un primo semestre buono e un secondo semestre pessimo. I bilanci del 2009 saranno sostanzialmente catastrofici, insomma, per magari ci sarà qualche fortunato, qualche settore migliore, qualche azienda migliore, ma nell'insieme ci sarà un peggioramento molto forte. Allora qui il vero tema non serve dar contro alle banche, non serve fare le lotte, come dire, le crociate, però serve invece richiamare a un fatto fondamentale. Oggi le banche, più che in passato, sono chiamate proprio a valutare le potenzialità del settore futuro, ma soprattutto a valutare le singole storie imprenditoriali. Bisogna dare i soldi anche ad aziende che hanno purtroppo brutti bilanci, ma che hanno una storia imprenditoriale vera, seria, che hanno un progetto imprenditoriale che sta in piedi nonostante magari il meno 50% di fatturato. Bisogna proprio entrare nella capacità di fare una valutazione azienda per azienda, business plan per business plan. Forse anche questo un po' i nostri banchieri l'hanno perso nel tempo, magari anche in momenti migliori è più facile fare valutazioni un po' più, diciamo, sui numeri. Questo è un grande tema sul quale lavorare insieme. E forse, aggiungiamo noi, sono scattati nel passato troppi automatismi che si chiamano Basilea 2, troppi meccanicismi nel modo di valutare la salute di un'azienda, anche quando magari sta attraversando un raffreddore, un'influenza, in alcuni casi anche una polmonite, ma insomma non bastano i rating di Basilea, occorre anche la componente umana a nostro avviso. Andiamo avanti, perché oggi, ieri abbiamo molto criticato, lo devo dire con la stessa responsabile, la classifica del World Economic Forum, non perché l'Italia non abbia un grosso problema di competitività, ma perché vedere che siamo a livello di Azerbaijan e Giordania, obiettivamente uno si interroga su cosa servono queste classifiche. Oggi ne è uscita un'altra, ed è quella della Banca Mondiale. Siamo 78esimi su 180, abbiamo perso altri 4 posti, come luogo dove è facile o difficile svolgere un'attività di impresa. Continuiamo a scendere, siamo peggio anche perfino del Ruanda. Io continuo a chiedermi però come si fa a dire che è più facile fare impresa in Ruanda che non in Italia, fermo restando che è difficile fare impresa in Italia, ci mancherebbe. Comunque questo è il rapporto della Banca Mondiale. Per essere un po' più concreti, noi un po' più prosaici, dopo le informazioni per chi è in viaggio, invece abbiamo chiesto a chi l'imprenditore lo fa già e lo fa anche con successo, ed è la prima di una serie di interviste, che consigli può dare lui per come essere competitivi e produttivi, anche perché nella barca ci sono tutti e non è che uno perché si chiama TecnoGym, come in questo caso, abbia meno problemi di altri. Di nuovo in diretta, e allora, visto che molti piccoli e medi imprenditori ci scrivono sulla difficoltà, insomma, che hanno a competere ogni giorno e non ne possono più di tante analisi, dati aggregati, dicevo, vogliamo capire come stanno le cose e quali sfide e come le affrontano anche imprenditori che spesso si pensa erroneamente che problemi non ne abbiano. Oggi è la volta di TecnoGym, leader mondiale nei prodotti e servizi per la palestra e la riabilitazione. È riuscito ad avere 1.400 dipendenti, di cui 600 all'estero, 400 milioni di fatturato, con il suo fondatore Nerio Alessandri. Abbiamo cercato di capire, insomma, appunto, quali strategie stanno adottando, l'abbiamo fatto durante il workshop di Cernobbio. Credo che in questa situazione globale, mondiale, di crisi, nessuno possa dire che non ne risente, e quindi anche noi, come credo il 99% delle aziende, ne stiamo risentendo, ed è all'ordine del giorno argomenti quali taglio di costi, ridimensionare le linee produttive, saper gestire il credito, gestire le risorse umane, che sono la risorsa più importante, così come la fidelizzazione del cliente, che è il nostro obiettivo principale. Io credo che però non si debba parlare di crisi, perché questa non è una crisi. Questo è un ridimensionamento globale del mercato, dei consumi e delle necessità di mercato, che sostanzialmente hanno influenzato due fattori. Uno, la diminuzione dei volumi, delle quantità, dei prodotti, dei servizi, e l'altro il prezzo unitario, il listino prezzi medio. Quindi questi due fattori insieme generano un impatto sul bilancio e sul conto economico. Quindi dobbiamo organizzare le nostre imprese tenendo conto non di una crisi, ma di un ridimensionamento che sarà di molti anni, non di mesi. Giusto per fare capire che anche lei è come gli altri, è umano, che anche voi siete umani, possiamo dire a spanne, voi i dati non li avete ancora pubblicati, ma che tipo di ridimensionamento voi state subendo? Cioè i cali sono nell'ordine del 10, del 20, del 30%? Dunque, allora, noi siamo un'azienda che è stagionale e abbiamo praticamente il 40% del nostro fatturato nell'ultimo trimestre e più del 20% nel mese di dicembre, storicamente è così. Quindi abbiamo avuto una prima parte dell'anno in calo sopra, diciamo, a due cifre, con però un aspetto molto importante di una ripresa degli ordini e devo dire anche di un risultato, soprattutto dell'ultimo trimestre, sugli ordini molto positivo. Questo è dovuto anche al fatto che probabilmente i magazzini, che erano stati forti ed alti nella prima parte dell'anno, si sono sgonfiati in generale e quindi il rilancio degli ordini praticamente è stato poi da luglio in avanti, come dire, più alto rispetto al normale. Ma questi movimenti positivi, almeno all'interno della nostra azienda, non ci fanno abbassare il livello di guardia, perché abbiamo previsto assolutamente un 2009 difficile, anche un 2010 fortemente condizionato dai finanziamenti, quindi dai crediti, gestione del credito, intendo i leasing operativi, perché per le industrie come la nostra, che trattiamo, vendiamo beni durevoli, il fattore, diciamo, leasing, il fattore credito incide moltissimo, perché chi compra lo vede come un investimento. Devo dire però una nota molto positiva, che le palestre sono piene, quindi la salute è un bene ormai di prima necessità, la prevenzione, l'intrattenimento, quindi andare in palestra costa poco e investire in salute è comunque un valore più sentito rispetto al passato. E anche voi un po' rientrate in quel paradosso del lipstick, del rossetto, per cui durante i periodi di crisi aumentano le vendite di cosmetici perché uno non vuole rinunciare a tutto. Al di là della battuta, vorrei capire, lei ci ha già detto, per esempio nell'andamento del fatturato e anche in questa ciclicità sugli ordinativi dovuta a uno svuotamento dei magazzini, che anche voi appunto risentite ampiamente del ciclo economico. Un'idea che hanno spesso i piccoli, piccolissimi imprenditori è che però nel rapporto con le banche, se tu ti chiami Tecnogym o ti chiami in altri modi, le banche ti stendono tappeti rossi e sono molto attente. Se tu ti chiami invece Giorgio Bianchi e hai una piccola impresa che magari produce in subfornitura componenti meccaniche, ti chiedono di rientrare e basta, perché tanto tu hai 20 dipendenti e non sei così importante per loro. È vero che voi siete privilegiati nel rapporto con le banche? Credo che purtroppo il mondo finanziario abbia subito degli eccessi, sia in passato troppo, nel senso che si è dato troppo alle imprese e alle persone fisiche, senza guardare, diciamo, a chi, e oggi sia poco, cioè sostanzialmente la stretta creditizia è un pochettino diffusa, quindi non farei una grossa distinzione fra i grandi e i piccoli. È chiaro che bisogna, e questo lo possono fare sia i piccoli che i grandi, bisogna impostare un rapporto nuovo con le banche. E ritengo che debba essere vista la banca come un consulente, quindi riuscire a condividere il progetto aziendale, il piano industriale, cercare di comunque andare in banca con dei dati, con delle prospettive, con delle analisi e far vedere, tanto che tu sei piccolo, che sei grande, alla banca che hai il controllo della tua azienda e hai la visione della tua azienda. Quindi secondo me non bisogna rassegnarsi alla dimensione, ma bisogna reagire comunque, prendendo anche spunto, voglio dire, da consigli che si possono avere da altri imprenditori, per dire che comunque l'aspetto fiduciario, la fiducia passa attraverso la relazione e passa attraverso la condivisione di progetti e di prospettive. Quindi, così come facciamo noi, credo che tutte le imprese, anche più piccole, possono fare, è quello di mettere in concorrenza le banche attraverso una proposta di progettualità e di piani industriali, che possono essere anche quelli di ridimensionare la propria azienda, di affrontare i tagli, licenziamenti, cassa integrazione, ma far vedere che ci sono dei piani di azioni chiari in un momento difficile, che però, se attivati questi piani di azione, anche drastici, possono proiettare l'azienda verso una ripresa e trovarsi pronti al momento di una ripresa internazionale e globale. Ecco, e arriviamo all'ultima parte di questa intervista. Io l'ho immaginata un'intervista in cui lei riesce anche, visto, ripeto, il caso di successo innegabile della Tecnogym, qualche consiglio ai piccoli imprenditori in ascolto e che seguono questo programma. mutatis mutandis, è chiaro che lei produce attrezzi per palestre, attrezzi ginnici, altri possono avere produrre pompe idrauliche, meccanica industriale, però se lei dovesse tenere una lezione breve, chiaramente, su come affrontare e quali sono le sue lezioni su come affrontare questa crisi, che cosa consiglierebbe? In primo luogo metterei la formazione, comunque la scelta degli uomini giusti, cioè che sia un'azienda di 5 dipendenti o di 10 o di 1000 o di 10.000, la differenza la fanno gli uomini. Guardare al proprio interno, di puntare sui migliori collaboratori, anche se fosse uno solo, e valorizzarlo. Poi continuare sull'innovazione e investire comunque nell'innovazione, che significa comunque differenziarsi rispetto alla concorrenza. Poi magari un'azienda piccola può fare anche un'attività finanziaria, che può anche essere quella di dire: ma cerco di fare delle partnership, cerco di associarmi ad altri, magari ho qualche collega che ha, diciamo, qualche concorrente che è disponibile a mettersi insieme, cioè quindi quella anche essere disposti a perdere la maggioranza, essere disposti a non avere più il controllo dell'azienda, ma forse è giunto il momento per dire: anziché avere il 70% di un'azienda che non va tanto bene, è meglio avere il 30% di un'azienda che va molto bene. Quindi anche, come dire, noi imprenditori fondatori delle nostre imprese, essere un po' più distaccati, un po' più freddi, cinici, fra virgolette, nel guardare la prospettiva anche in un'ottica di partnership, anche in un'ottica di attività, diciamo così, di integrazione, di accorpamento con altri per rafforzarsi. Ma non mollare la presa sull'innovazione, innovazione a 360 gradi. Ecco, e quindi per concludere, la cosa su cui voi state puntando per affrontare la crisi in questo momento come Tecnogym, dei vari elementi che lei ha citato, qual è? Aspetto commerciale. Credo che in questo momento la priorità di tutti debba essere il rafforzamento della rete commerciale, quindi fidelizzazione del cliente, segmentazione del mercato, espansione nei mercati laterali, in paesi emergenti, nelle nuove nicchie, cioè l'investimento numero uno in questo momento deve andare sul lato marketing e vendite, soprattutto quello riferito al field, cioè quello sul campo, perché sono gli uomini sul campo che fanno la differenza. Per inciso, visto che la Confindustria italiana e quella tedesca hanno chiesto a Bruxelles di sospendere, allentare i criteri di Basilea 2, lei su questo fronte com'è? Ritiene che Basilea 2 irrigidisca troppo e si personalizzi troppo il rapporto direttore di banca con l'imprenditore, con il cliente? Credo che è avvenuto negli ultimi 5-10 anni, e poi la legge Basilea 2, diciamo, ha, come dire, chiuso il cerchio, un aspetto estremamente negativo, cioè quello che tutto il credito, il rapporto fiduciario fra cliente e fornitore passa attraverso le banche. In passato c'erano le cambiali, c'erano gli assegni postdatati, c'erano le strette di mano, quindi il rapporto fiduciario e quindi il rischio veniva gestito guardandosi negli occhi fra cliente e fornitore con una stretta di mano e una cambiale. Questo non c'è più, questo è stato disintermediato, questo rapporto fiduciario, dal sistema bancario, che in modo freddo e in modo, come dire, piatto, ha fatto di tutta l'erba un fascio, soprattutto giudicando le aziende guardando il loro passato, e quindi è una vera e propria fotografia che si ingiallisse l'istante dopo, senza guardare avanti. Credo che Basilea guardi indietro, non guarda avanti, e probabilmente c'è stato un eccesso sia prima, che non c'erano controlli di nessun tipo, sia ora che ci sono queste regole così rigide e che non rende flessibile, diciamo, l'interpretazione del business. Quindi sicuramente va rivista Basilea 2, credo che abbia fatto molto bene il nostro presidente di Confindustria, e sono sicuro che tante altre, diciamo, Confindustrie di altri stati europei seguiranno quella italiana. Questi consigli, spero utili, da parte di Nerio Alessandri, uno dei fondatori appunto di Tecnogym, e noi continueremo, lo dico anche a chi scrive al 349-238-6666, alternare le grandi alte previsioni degli organismi internazionali con i suggerimenti, forse anche più piccoli, ma magari anche più concreti, di chi l'impresa la fa tutti i giorni. Per ora, intanto, da Sebastiano Barisoni, a voi in ascolto, l'augurio di una buona serata. Ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Focus Economia.